lo so che è generico, resto ancora più generico sulle cose a cui mi dedico. Lavoro in fabbriche di seguito, ti dico che mi occupo di un giro poco lecito. E che vuoi fare una questione di contante, è un mondo rimbombante, le cazzate sono tante. Devi schifare i soldi se sei un MC, ma Pavino ti dai soldi per la caglia MPC. Ancora Costa Vecchia e nuova scuola, io vengo dalla scuola ruba e vendi il Motorola. Io vengo dalla scuola dove si diffonde il panico. Io vengo dalla scuola di chi lotta perché tiene i figli a carico. E da sta guerra me ne vado, è una rivoluzione di chi ha il culo parato. Tutti sti ragazzini davanti a MySpace, io sono cresciuto a pane Scarface. Fate fuori questo rap, fate fuori questo rap, fate fuori questo rap, fate fuori questo rap, fate fuori questo rap, fate fuori questo rap, fate fuori questo rap. Odio chi filosofizza, odio chi estremizza, odio chi la smette, odio chi nemmeno inizia, odio chi è distratto perché non memorizza, chi polverizza e parlando per metafore si spicce e mi carbonizza, mi terrorizza, chi muore sul lavoro e chi si fa i pazzi e pizza. Ecco perché ogni giornata rappresenta una scalata su una lunga scalinata. La vita è malata, è un baule di paure dove ti armi di scure o ti attacchi al cazzo o alla fune. Io sono un uomo comune con un solo scopo, uscire dalle fognature. Quindi non stressatemi, io penso solamente che non parlo per nessuno e non rappresento niente. E se dovessi farcela campando di illusione, resto un padre di famiglia e non un divo spallone. Fate fuori questo rap, fate fuori questo rap, fate fuori questo rap, fate fuori questo rap.